50 domande su Gesù. Che accadde nell'ultima cena? Le ore che precedettero la passione e la morte di Gesù rimasero incise con speciale forza nella memoria e nel cuore di coloro che stavano con lui. Per questo, negli scritti del Nuovo Testamento si conservano molti dettagli su quello che Gesù fece e disse nella sua ultima cena. Secondo Joachim Jeremias, è uno degli episodi meglio testimoniati della sua vita. In questa occasione, Gesù era solo con i 12 apostoli. Non lo accompagnavano né Maria, sua madre, né le sante donne. Secondo il racconto di San Giovanni, all'inizio, in un gesto carico di significato, Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, dando così un esempio umile di servizio. In seguito ha luogo uno degli episodi più drammatici di questa riunione. Gesù annuncia che uno di loro stava per tradirlo, ed essi si guardano l'un l'altro con stupore per quello che Gesù sta dicendo. Dopodiché Gesù delicatamente indica Giuda. Nel corso della cena, il fatto più sorprendente è stato l'istituzione dell'Eucarestia. Di questo momento si conservano quattro versioni, le tre dei sinottici e quella di San Paolo, molto simili fra loro. Si tratta in tutti i casi di narrazioni di pochi versetti appena, in cui si ricordano i gesti e le parole di Gesù che diedero luogo al sacramento e che costituiscono il nucleo del nuovo rito. Poi, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è stato dato per voi. Fate questo in memoria di me». Sono parole che esprimono la radicale novità rispetto alle cene ordinarie di quello che stava succedendo in quella cena di Gesù con i suoi apostoli. Gesù nell'ultima cena non offrì pane a quelli che stavano con lui, ma una realtà diversa sotto le apparenze del pane. «Questo è il mio corpo». E trasmise agli apostoli, che erano lì, il potere necessario per fare quello che lui fece in quell'occasione. «Fate questo in memoria di me». Alla fine della cena accadde anche qualcosa di singolare rilevanza. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». Gli apostoli compresero che se prima avevano assistito alla donazione del suo corpo sotto le apparenze del pane, ora dava loro da bere il suo sangue in un calice. In questo modo la tradizione cristiana percepì in questo ricordo della donazione in forma separata del suo corpo e del suo sangue un segno efficace del sacrificio che poche ore dopo si sarebbe consumato sulla croce. Inoltre, durante tutto questo tempo, Gesù parlò con affetto, lasciando nel cuore degli apostoli le sue ultime parole. Nel Vangelo di San Giovanni si conserva la memoria di questo lungo e intimo discorso dopo cena. In questi momenti si colloca anche il comandamento nuovo, il cui compimento sarà il segnale distintivo del cristiano. «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, amatevi anche voi gli uni gli altri. In questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri».